prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buonasera, l'ospite di oggi è Goran Bregovic, come molti di voi avranno certamente capito dalla musica che ci ha preceduti. Nato a Sarajevo, una vita inquieta, segnata da momenti estremamente turbolenti, poi finalmente la svolta, anzi la sua prima volta, il momento in cui la musica, da bisogno di ribellione, si trasforma in madre che protegge e cura. Quando questo avviene, coincide con un terribile momento per Sarajevo, sono i giorni della guerra e della fame, e non solo la musica protegge, anche la poesia, come dirà Salajic. I poeti a Sarajevo facevano il turno di notte per impedire l'arresto del cuore del mondo. Durante l'assedio della città, gli abitanti di Sarajevo andavano alle serate di poesia nel buio di una città senza corrente elettrica. A Sarajevo, in questa primavera 1992, tutto è possibile. Fai la coda per comprare il pane e ti ritrovi al servizio traumatologia con una gamba amputata. E dopo asserisci d'aver avuto anche fortuna. Questo era dunque quanto accadeva a Sarajevo. Lontano invece da quella città, in un quartiere di Parigi, Goran Bregovic componeva musica per la sua gente e forse si può dire a modo suo anche egli abbia fatto il suo turno di notte. Malaurosamente la musica non può cambiare il mondo. Con la musica si possono fare le cose che siano inimmaginabili per la politica, la regione, o non so, queste cose più importanti che la musica. Allora io sono fortunato di essere musicista, allora per me tutto è facile, che è difficile per tutti gli altri. Però malaurosamente questo non cambia il mondo. Però anche sapendo che non cambiamo il mondo, facciamo piccoli segnali, perché c'è una lunga strada a illuminare per fare questo mondo migliore, e anche i piccolissimi luci aiutano. Allora ognuno di noi fa queste piccole luci, anche i musicisti o compositori come io. Senta, le volevo chiedere questa cosa. Ho letto che lei, quando era ragazzino, è stato un po' turbolento, è stato allontanato da scuola, era un po' un discolo, insomma, perché? Durante il comunismo il mondo era molto molto diverso di oggi, allora è un po', non so, poi ho cominciato a suonare molto presto, suonavo già nei bar di striptease quando avevo 17 anni, e nei bar di striptease, nei tempi dei comunisti, non si trattava solamente delle donne nude, erano rifugi per gli artisti, per gli scrittori. Allora sono incontrato molto presto la gente che forse cambiano la mia vita per sempre. Allora è normale che ero un po' bambino, un po' penso che la mia mamma era un po' disperata. Volevo chiederle com'era sua mamma con lei. Era come tutte mamme, sempre pensava che il futuro sarà duro per me, come tutte mamme. Però quando penso a questi tempi, penso sempre come erano i tempi un po' difficili per vivere. Però io avevo fortuna, quando avevo già 18, di sortire di Jugoslavia e di fare un anno a Napoli. Questo era più veramente come un miracolo successo per me, uscire da un mondo grigio, da questo mondo così colorato e così diverso di mio, dove io vengo. Quindi lei a 18 anni è arrivato a Napoli, e com'è stato? Cioè, siccome un signore che aveva un bar a Napoli ci aveva visto quando io suonavo al bar di striptease in Jugoslavia, voleva il mio complesso venire a Napoli. Suonavamo quasi un anno a Napoli, a Ischia, a Capri, nei bar. E poi avevamo un po' problema con le droghe, e erano gli anni 70, gli anni un po' strani, e allora la mia mamma è venuta in Italia a mi prendere, e allora io ho promesso che non suonerò più, perché per la mia mamma musica era collegata con le droghe. Allora studiavo per 4 anni e non suonavo. Ho fatto il mio primo disco nell'ultimo anno di università e così mi sono salvato di destino di essere professore di filosofia nel liceo, perché sono già con primo disco sono diventato il più grande star di rock and roll nel mio paese. Ecco, com'è stato a un certo punto essere una star internazionale? Per voi che siete una grande cultura musicale è meno miracoloso, però per uno che viene da una cultura musicale proprio piccolissima è un miracolo. Adesso quando io penso che vengo a Milano e avrò una sala esaurita, e qualche anno fa ho guardato solamente, avevo opportunità di vedere Sanremo, perché durante il comunismo l'unica cosa che potevamo vedere da Occidente era Sanremo. Mamma mia. Allora è un miracolo successo per me. E poi siccome io dovevo ricominciare 2 volte nella vita, perché io sono da Sarajevo, allora come di tutti di Sarajevo le nostre vite sono divise, la vita prima della guerra e la vita dopo della guerra. Siccome per fortuna ero a Parigi quando la guerra è cominciata, allora devo ricominciare da zero, perché nella guerra perdi tutto da un giorno, tutto che hai, allora ci vuole cominciare da zero. Nell'inizio era un po' difficile, però oggi quando penso che questa è forse la cosa più bella che è successa. Malauguratamente c'era la guerra che dovevo fare, però anche il più glamurosa routine è sempre routine. Quello che è bello è iniziare, è il beginning. Allora io avevo l'opportunità di ricominciare 2 volte e questa è la cosa più bella che mi è successa. E quanti anni aveva quando era a Sarajevo, a Parigi, ha dovuto ricominciare? A questo era già nel 90-91. Ah, quindi era già adulto, diciamo? Non era più ragazzino, quindi comunque faticoso. No, avevo già una lunga carriera. Ora ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra poco. Lunedì 28 settembre alle 9 torna Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste e i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori, Franco Schipani, la pecora nera di Sara Tardelli e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. La prima volta. Nessuna traccia di Jovan? Nessuna. Nessuna, mai nessuna. Io protesto formalmente. Sì, protesto anch'io, compagno. Non mi chiamo compagno, signore. E io non mi chiamo signore, compagno. Lei che cos'è? Un stascio, un cettico o un partigiano? Sono Peter Popara, detto il nero. Quale esercito appartiene, compagno? Al mio. Non ce l'ha un superiore da qualche parte? Certo. Il mio paese. Porci fascisti, figli di Troia. La scena che avete appena sentito, tratta da Underground di Kostouritsa, è forse una delle scene più surreali, forti e simboliche di ciò che fu la guerra a Sarajevo. Mentre il protagonista cammina, si vede la statua di Gesù Cristo tirata giù dalla croce e capovolta, e una carrozzella infuocata che ruota attorno a questo crocefisso, che ormai non è più tale. Un cinema al quale Goran Bregovic, l'ospite di oggi, darà un'intensità incredibile. Bregovic e Kostouritsa si frequentavano da tempo, come ci racconta lui stesso, ospite nella puntata di oggi. Ogni tanto penso che il mondo occidentale dimentica che non siamo arrivati su questo punto dove siamo veloce. Le donne avevano il diritto di voto non da lungo tempo fa. Allora i diritti diversi di tutti i generi sono arrivati piano piano, finché siamo arrivati a questo punto dove siamo, ci vuole il tempo. E adesso penso che questo mondo occidentale non ha pazienza di vedere che il resto del mondo, che non è mondo occidentale, ha bisogno di tempo di andare nella modernità. Allora penso che c'è una confusione, comincia così. Abbiamo un capitalismo che non ha pazienza e il mondo non si muove nella velocità come vuole il capitalismo. Allora penso che questa è una cosa che fa il problema in questo mondo, però comunque il mondo è migliore ogni giorno quando si compara con il mondo 50 anni fa o 100 anni fa, è incomparabile, però non, solamente che non abbiamo pazienza di aspettare che le cose arrivano più naturalmente. Ma e senta, le volevo chiedere una cosa a proposito della sua carriera. Lei e Kusturica vi conoscevate già da prima, cioè da ragazzini, o vi siete conosciuti? Da ragazzini no, però stare in una piccola città e tutti si conoscono, no? Non è che non ci conosciamo, ovviamente che ci conosciamo. Io ero nel questo circuito degli amici che guardava, che lui invitava di guardare diverse versioni quando finiva il film. Lui aveva questa maniera di decina, quindicina amici che vengono e poi si discute dopo, e io ero sempre nel stesso circolo degli amici, e lui non utilizzava la musica composta perché lui viene da questa accademia di Praga dove penso è una filosofia che solamente il film che non sono buoni hanno bisogno di musica come un aiuto ortopedico. Allora, la prima volta mi ha chiesto, per il tempo dei gitani, proviamo a mettere su una scena un po' di musica, e poi così è cominciato. In questi tempi io ero grande star, allora gli star di rock and roll non fanno musica di film, non ci sono abbastanza soldi, non c'è la gloria. Allora si fa per l'amicizia. Allora il primo film ho fatto per l'amicizia, il secondo film era già la guerra cominciata e eravamo per finire il film già a Parigi. Infatti si sente molto che eravate lontani, insomma, che eravate... Ah, sì, era un po' difficile, anche se eravamo fortunati di non essere chiusi a Sarajevo, però comunque la guerra spara anche a lontano. Eh sì, non peggio. Perché specialmente a me, la mia famiglia è complicata, c'è la parte croata, la parte serba, la mia moglie musulmana, allora un po' molto complicata la situazione nel 91 era. Senta, lei ho visto che ha tre figli, giusto? Sì. E com'è la sua famiglia? Lei come padre, com'è? Siccome io suono più di 100 concerti nell'anno, allora sono un padre che viaggia sempre. Allora c'è la mamma che si occupa dei bambini, io non lo so da che servo, però mi sembra serve qualcosa. E che cosa? Non sono i padri, da che cosa servono? Magari in alcuni... Forse che i bambini si sentano sicuri, o non lo so. O poi anche quando mamma non permette qualcosa, loro chiamano papà. Eh sì, questo anche a casa mia succede. E questo è un loro ruolo di papà. Volevo chiederle un'altra cosa. Noi in Italia proprio ogni tanto vengono fuori un sacco di stereotipi sui Rom, no? Cioè, proprio si va avanti solo per luoghi comuni. Lei si è molto impegnato perché molti pregiudizi sui Rom venissero abbattuti. Rom vivono all'Europa quasi per sei secoli. Durante questi secoli, sei secoli, vivono difficilmente con noi. Dall'epoca di sclavaggio, che durava veramente lungo, fino al Hitler, avevano veramente i tempi duri. Allora oggi vedere che ancora Rom sono buttati fuori solamente perché sono Rom non è una cosa bella da vedere. Allora il mio ultimo disco, Champagne for Gypsies, è uscito in un momento un po' difficile per i gitani, allora non potevo resistere di non, ovviamente è un disco a bere e ballare, però che fa un, che ci ricordiamo che gli gitani hanno lasciato le tracce nella nostra cultura popolare. Allora ho invitato un po' dei artisti gitani che a me mi piacciono, dalla generazione Gypsy King fino al Gogol Bordello, che mi aiutano, che ci ricordiamo, no, niente grande, non è un disco di politica, è un semplice disco, però che non dimentichiamo. Perché sarebbe, che sarà, non so, sarebbe triste se, non so, la Francia è buttata fuori Django Reinhardt, o se la Svizzera è buttata fuori Charles Chaplin, o se hanno buttato fuori la famiglia di Gypsy King quando sono partiti scappati dal Franco di Spagna. Sì. Allora pensiamo un po' che loro sono gente che hanno sofferto molto durante i secoli. E ci vuole un po' di pazienza, e comunque penso che nel questo secolo impariamo un po' di vivere con un po' diversi. Questa è la storia amara e dolce di Goran Bregovic e della sua Sarajevo. E forse questo che stiamo per farvi sentire è invece uno dei monologhi più attuali e che scava nelle coscienze di tutti noi. A domenica prossima, sempre alle 23, venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook Radio 24 la prima volta. Buona serata e buon inizio di settimana a tutti da Cristina Carpinelli. In questo posto abbiamo costruito nuove case con i tetti rossi e i comignoli su cui faranno i nidi le cicogne, e con le porte sempre aperte agli ospiti, e saremo grati alla nostra nuova terra che ci nutre e al sole che ci riscalda e ai campi fioriti che ci ricordano i cilim colorati della nostra patria. Con dolore, con tristezza e con gioia ricorderemo la nostra terra quando racconteremo ai nostri figli storie che cominciano come le fiabe. C'era una volta un paese. Ciao, ora pistocci, cicciaie, sugi e paia. Signori, stoi!